Sacchetteldis del nostro Alino, lui fa la radio, la fa per Benino. Ogni mattina qual leva il sul, arriva il Bonetti e gli al picchia d'intel, pule pule pule pu, fa il tacchino. Qua qua qua qua l'occhetta, cif ciaf l'imbianchino, e di noi che cosa sarà? Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, alle 9:08 minuti puntuali. Siamo fino alle 11 con voi, per tenervi compagnia in queste due ore. E oggi arriva anche il signor Bonetti, come abbiamo sentito nella presigla, e quindi siamo tutti più sull'attenti. Allora, ci siamo? Ci siamo insieme alla nostra redazione, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli, insieme a voi. 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, i vostri audio, e 800-24-0024 se volete chiamarci. Siamo come al solito con una puntata ricca di interventi, ricca di ospiti e con un esordio particolare di un amico che abbiamo imparato a conoscere durante il lockdown, e con la sua tromba, ve lo ricordate, Raffaele Kohler, che con la sua tromba dai balconi di Milano teneva compagnia in qualche modo in un periodo in cui la città era molto silenziosa. Allora ci ha mandato un inno particolare dedicato a tutti gli studenti, che tutti, moltissimi dei quali ieri hanno ripreso ad andare a scuola. I will not be easy, and it will not be easy. Allora Alpino, adesso sfumiamo per un attimo la musica per sentire l'ingresso di Kohler. Che hanno ripreso ad andare a scuola. In bocca al lupo! Va bene, noi ringraziamo Raffaele Kohler, ti aspettiamo qua, stiamo organizzando, un giorno viene qua con la sua tromba e con la sua, se vuole, non è obbligato, ma noi vorremmo portarlo qui, vorremmo invitarlo. E poi che dire, perché della scuola non lo so, ci sono anche migliaia di articoli. Ieri cosa avevamo detto parlandone con lo scrittore Paolo Giordano? Speriamo di non trovare mille titoli che enfatizzano ogni singola cosa che non va bene, ogni singolo aspetto. Figurarsi, è durata un quarto d'ora, è la scuola dove gli studenti sono in ginocchio, è la scuola dove sono arrivati un minuto in ritardo, è la scuola dove manca questo, manca quell'altro, manca la merendina, manca di qui, è tutto un elenco, se volete, sui giornali di cose che vanno bene, ma come si sa, purtroppo attirano le notizie che raccontano cose che vanno male, e quindi queste hanno più enfasi sui giornali. Io sono due notizie che anche noi parleremo di scuola tra poco, ma lo facciamo, come ci ha detto ieri un ascoltatore, occupandoci soprattutto degli allievi, delle persone che hanno varie forme di disabilità. Due notizie però mi hanno colpito sui giornali. Il primo è questa inchiesta del Foglio, sentivo che giustamente anche Simone Spezia ne faceva riferimento durante la rassegna stampa. Bene, i cinesi ci spiano. Alpino, i cinesi ci spiano. Non fare quella faccia così. Sembra che non ti ho detto. Sembra che non ti abbia dato una notizia. Forse lo sapevi già. I cinesi ci spiano. Però il Foglio, con Giulia Pompili oggi, inizia un'inchiesta perché il Foglio è entrato in possesso di un possente database, lo ha fatto insieme al Washington Post, al Telegraph, all'Indian Express, altri giornali internazionali, e in questo database si parla di questa società che per conto dei cinesi raccoglie dati e informazioni sulla qualunque. E ci sono anche tantissimi nomi italiani, ci sono migliaia di nomi che interessano i cinesi. Oh, cosa vuol dire interessano? È interessante, scusate il gioco di parole, scoprendo attraverso questi nomi che cosa interessa ai cinesi. Beh, l'economia intanto, ci sono tantissimi industriali, le autorità portuali con tutto l'elenco di persone, gente del Vaticano, numerosi prelati, di ogni nome e cognome, scrive il Foglio, è dato un profilo scritto in inglese, molto dettagliato per quanto si possa dettagliare. Ci sono poi tutte le persone legate alla difesa, ovviamente i politici che sono Berlusconi, Renzi, insomma li sapete, i politici italiani. Ci sono anche tantissimi parenti e stretti collaboratori e anche persone di interesse speciale, cioè mafiosi. Mafiosi, giuro, dei profili di mafiosi. Pechino monitora politici, imprenditori, criminali e le loro famiglie. Tra l'altro, su questo oggi Michele Serra dedica a questo tema la maca su Repubblica e scrive: tra le quasi 5.000 personalità italiane comprese nel database cinese Zhenhua non ci sono giornalisti. A quanto se ne sa ci sono politici, imprenditori, scienziati, militari, prelati, autorità portuali, criminali, pregiudicati a vario titolo, mafie ufficiali, giornalisti no. E questo parrebbe confermare quanto poco conti oggi quello che fu il quinto potere, una vecchia zattera surclassata dalla marea di informazioni che la rete elargisce in quantità smisurata. Ma passato l'attimo di lesa vanità, ci si rende conto che non solo i giornalisti, anche artisti, scrittori, intellettuali, attori, cantanti non compaiono nella selezione cinese. Qualunque scopo abbia quel database, questo potrebbe significare che l'intero mondo della produzione intellettuale artistica è considerato poco rilevante ai fini della mappatura del potere, il potere quello vero. Comunque signori, i cinesi ci spiano, volevo darvi questa notizia alle 9.15 su Radio 24, grandi scoop di Uno Nessuno 100.000. L'altra, sì, non so, un ascoltatore scrive perché ci sono ancora giornalisti. Sì, vabbè, dai, questa ironia banale, vabbè, sì, ci sono. L'altra notizia che mi ha colpito, questa è da, se facesse ancora la segna stampa vecchia, è da Mani sul volante, perché, allora, ci dedica un paio di pagine, sia in locale che in nazionale, il quotidiano nazionale. Ricordate la vicenda di cronaca brutale di un cittadino di 31 anni del Bangladesh che a Milano in largo La Foppa aggredì un anno fa una donna di 64 anni con cocci di bottiglia rotti senza alcun motivo, cioè proprio passava, l'ha incrociata e ha sfogato la sua psicosi, dobbiamo utilizzare questo termine, ora capite perché. Con un coccio rischiò di uccidere, era infermo di mente, ora è libero. È successo un anno fa. Guardate che è tutto dettagliato nell'articolo di Mario Consani. Allora, intanto quest'uomo è giudicato incapace di intendere e volere al momento dei fatti e quindi non può essere giudicato colpevole. Ma c'è di più. Il giudice non ha stabilito, non ha neanche applicato la misura di sicurezza che in genere in questi casi si fa, di stare 2 anni in una REMS, un'apposita residenza, come peraltro aveva chiesto il PM, cioè almeno teniamolo in una situazione di controllo dal punto di vista psichiatrico. No, secondo l'avvocato difensore, supportato da una consulenza tecnica di uno psichiatra, si sono prodotti studi scientifici che hanno convinto il giudice che non ci può essere più pericolosità sociale attuale del ragazzo che è stato affetto al momento dei fatti da un disturbo psicotico breve che ora non presenta più. Ora, per carità, io, lo sapete, odio rifare i processi perché non sappiamo, non conosciamo le carte, eccetera. Però un cittadino che legge che una persona ha avuto un attacco psicotico breve e ha quasi ucciso a cocci di bottiglia una passante e dopo 1 anno è completamente libero, si dice che forse verrà espulso. Questa è l'unica misura che un po' rassicura più di tanto, non lo so. Va bene, poi io qui mi spendo a dire sì al garantismo e lo ribadisco, no alle pene quelle dettate dalla pancia. Poi uno legge una roba del genere e dice: e come fai di fronte a notizie del genere a continuare a sostenere la legittimità e continua a farlo del garantismo, del no a rispondere con le pene di pancia, no a arrabbiarsi, no a dire quelle frasi buttiamo via la chiave, pena di morte, quelle stupidate lì. Però poi di fronte a questo fai veramente un po' di difficoltà e agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Chi è questo? È Conte, l'altro Conte. Oh, Elisabetta Fuscoli ci fa sapere che hanno arrestato Johnny lo Zingaro. Sì, questa mattina hanno arrestato Johnny lo Zingaro, è un po' la sua passione da giorni, ce ne parla, coltiva questo fascino per il male e lo hanno ripreso, mentre Graziano Mesina non ancora. Graziano Mesina è fuggito e non ancora. Va bene, dai, adesso voglio tornare a bomba un po' sul tema scuola, ma lo voglio fare. Io ho detto non voglio più parlare della scuola riaperta, basta, lasciamoli andare a scuola, non inseguiamo la notizia lì chiusa una classe, là in quarantena l'altro, quello ha la febbre, quello è stato male in classe, quindi non inseguiamo queste piccole cose. C'è però un grande tema, l'unico secondo me interessante, come ci ha scritto ieri un ascoltatore, che è il tema di tanti studenti che purtroppo per la loro situazione di diversa abilità hanno bisogno di un supporto. Allora io voglio ritornare a salutare, perché è stata già con noi, Martina Fuga, buongiorno, responsabile comunicazione di CoreDown, no? Che è un acronimo per Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down. Mamma buongiorno. Di Elena, buongiorno Martina. Mamma di Elena, sì. Che va in che classe? Allora, mamma di Emma sì, seconda superiore. Ho letto superiore. Male io, colpa mia. Non ti preoccupare. Seconda superiore ha iniziato ieri. Com'è andata per quel che riguarda Emma? Com'è? Ma allora, sul piano personale le cose sono andate abbastanza bene, perché Emma era entusiasta di ricominciare, di rivedere i suoi compagni, di andare a scuola. Terrorizzata di tutte queste procedure, perché insomma il tema sui nostri ragazzi è anche questo, no? Che spiegargli le regole e fare in modo che le applichino non è così scontato. No, non è scontato. Io faccio un esempio: ieri ho ricevuto una chiamata da un caro amico, no, non farò il nome, sua moglie fa l'insegnante alle elementari, tra l'altro in prima elementare, e ha detto un bambino che è arrivato in prima elementare è autistico. E voleva stare vicino a una compagnetta che ha conosciuto. Cioè, come si fa in quella situazione a fargli rispettare la regola del distanziamento? È proprio questo il grosso tema, perché io ieri Emma, prima che scendesse dalla macchina, le ho ricordato: mi raccomando non dare abbracci, mi raccomando non dare baci. È scesa, l'ho guardata avvicinare le sue compagne e gli ha dato un 5 e lì mi sono sentita morire, perché non gli avevo ricordato di non dare il 5. Se gliel'avessi detto non l'avrebbe fatto, insomma. Lo spero. Oggi gliel'ho ricordato, però questo è un tema, no? Poi è andata a scuola e aveva una situazione già anche organizzata, e quindi lei ha potuto cominciare. Il problema è per i ragazzi, i bambini, che non hanno potuto cominciare la scuola ieri. Esatto, cioè c'è un elenco di cattedre scoperte, un elenco di insegnanti di sostegno che mancano. Ma perché c'è questo tema della mancanza periodica degli insegnanti di sostegno? Allora, questo è una annosa questione, c'è tutti gli anni. C'è tutti gli anni, si arriva sempre in ritardo, c'è il tema di graduatorie, c'è il tema di insegnanti specializzati e insegnanti non specializzati, perché i nostri ragazzi, tu non andresti a farti operare da un chirurgo, no? Che non è specializzato in ortopedia se devi operarti un ginocchio, sì. Però i nostri figli li mettono in mano a degli insegnanti che non sono specializzati, perché non ce ne sono abbastanza di specializzati. Questo è un tema annoso e drammatico che stiamo cercando di affrontare. Ma la cosa assurda è che quest'anno ci sono stati 6 mesi di tempo, sì, per non arrivare all'inizio della scuola in queste condizioni, perché tutti gli anni ci troviamo in questa situazione. Quindi anche gli strumentalismi che sono stati fatti in questi giorni da alcuni partiti politici sono assolutamente ridicoli, perché con tutti i partiti c'è stata la stessa situazione all'inizio delle scuole. No, ma infatti il tema del ritardo degli insegnanti di sostegno, guarda, un ascoltatore proprio scrive: purtroppo gli insegnanti di sostegno arrivano in ritardo ogni anno, a volte anche dopo un mese. Io vorrei innanzitutto capire perché. Cioè, nel senso, dove si inceppa la macchina, allora, burocratica? Il tema è, perché sono segnalati i ragazzi che hanno bisogno di insegnanti di sostegno, sono segnalati prima. Esattamente, sono segnalati prima e ci sono gli insegnanti di ruolo hanno cominciato ieri. Mia, sì, figlia ha 18 ore di sostegno, le 9 ore in cui ha assegnata un insegnante di ruolo ha cominciato ieri, e quindi questo non è un problema. Il problema sono le supplenze, ma le supplenze a tutto tondo, cioè non solo quelle dei sostegni, anche degli altri insegnanti di sostegno. Cosa è successo? Quest'anno hanno riformato il modulo, le modalità di assegnazione delle nomine. Mm-hmm. Questo sistema, peraltro super tecnologico, non ha funzionato. Sì. Gli insegnanti dovevano iscriversi con un form online che non ha funzionato, è andato tutto a palla. Queste nomine dovevano essere fatte diciamo via telematica entro questo weekend, in modo che lunedì si potesse cominciare tutti pronti, sì, e questa cosa non ha funzionato. Allora cosa è successo? Alcune regioni, per esempio a Milano, l'ex ministro Buzzetti cosa ha fatto? Ha detto alle scuole: ok, non siamo pronti, non si riesce a fare questa cosa, nominateli con le graduatorie cartacee. Tempo 2 giorni, gli hanno detto: no, non si può fare, tornate indietro, bisogna fare come ha detto il ministero, bisogna farlo con le nomine telematiche. Ora, questa cosa non ha funzionato, sì, sono, sì, in palla totale. E chi ci rimette sono i nostri sono figli. I ragazzi. No, ma devo dire che gli ascoltatori ci dicono: ah, non è il problema solo di quest'anno. Questo non è che è vero. Sì, infatti l'abbiamo detto, ma perché non è, no, perché c'è sempre il retropensiero di dire: volete attaccare una parte politica rispetto a un'altra. No, problema c'è da sempre. Questo problema c'è da sempre. C'è da sempre. Le parole di Assolini e di Conte all'inizio dell'anno, l'augurio, eccetera, sono state molto rassicuranti: abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo, è vero, tante cose sono state fatte. Il problema è che una cosa noi avevamo chiesto, noi associazioni di categorie, al comitato degli esperti, perché quando è stato eletto il comitato degli esperti noi ci siamo attivati, perché non c'era una persona in quel comitato che avesse competenze sul tema disabilità adeguate, che potesse valutare come i nostri figli arrivavano a scuola, quali erano le procedure, come spiegare ai nostri figli come attivare le cose di sicurezza, le procedure di sicurezza, ma anche questo tema degli insegnanti di sostegno. Noi avevamo chiesto una cosa al comitato, quando siamo andati in audizione, perché poi ci hanno ascoltato quando ci siamo lamentati, siamo andati in audizione, abbiamo chiesto una cosa, gli abbiamo chiesto: non troviamoci a settembre Con le cattedre scoperte. Invece, e questo è quello che è successo. E questo è quello che succede. Ma, E poi l'altra follia è che i nostri ragazzi hanno diritto ad andare a scuola sempre. Le scuole che non sono strutturate, che non hanno spazi, che non hanno potuto affittare l'oratorio, la chiesa o il palazzo, hanno dovuto scegliere le turnazioni. Sì. Le turnazioni come funzionano? Funziona in alcune scuole, perché l'autonomia che è stata data ai presidi, cosa succede? Alcune scuole hanno deciso di dividere la classe a metà, sì, e far andare metà alunni, certo, una settimana e metà alunni un'altra settimana o a giorni, a seconda del, del protocollo che hanno deciso. Gli alunni con disabilità vanno sempre. Sì. In alcune scuole cosa succede? No, vanno una settimana sì e una settimana no. Ah. L'alunno con disabilità va sempre da solo. Diciamo che, cara Martina, ci sono, per carità, ripeto, ogni anno questa problematica, certo quest'anno, sentirla quest'anno, dove sappiamo già che ci sarebbero state tante altre problematiche, tante questioni da risolvere e appunto con sei mesi di possibilità di trovare una soluzione, certo devo dire che una soluzione quest'anno è molto più complicata rispetto ad altri anni, non bisogna negare neanche questo, c'è da dire che però fa molto dispiacere. Io per il momento ti ringrazio, ringrazio Martina Fuga, Coordinamento Nazionale Associazione delle Persone con Sindrome di Down, mamma di Emma che fa la seconda liceo, abbiamo scoperto, e speriamo bene, perché tutelare le ragazze e i ragazzi che hanno più bisogno è un segno di civiltà assoluta. Allora, prima di andare in pubblicità vi voglio far sentire invece lui, Silvio Berlusconi. Ma alla fine, prima, parentesi, adesso stanno arrivando tanti messaggi di storie, di racconti della scuola, mandateceli se volete al 349-238-6666. L'ascoltatore dice: ma come, ho scoperto che mio figlio deve tenere la mascherina sempre, anche in classe, non si può muovere, non si può girare, gli hanno messi, vabbè, utilizza questa parola, in un lager, non esageriamo caro ascoltatore, non usiamo le parole in maniera impropria, assolutamente, li ha messi in una gabbia, magari è esagerato, però questo lo posso accettare come paragone. Non mi faccia dire niente, perché tanto è da giorni che dico questa cosa e poi vengo criticato come colui che vuole, ieri mi hanno detto che vuole dare benzina al fuoco dei, altra parola odiosa, negazionisti. Per carità, va bene così, cioè che i ragazzini debbano stare 6-7 ore con la mascherina sempre attaccata anche se seduti al banco, a me non sta bene, però accetto le regole, e tutte le volte quando mio figlio torna dicendo papà ma è un inferno, non si respira, se io dico, lo guardo, dico Mattia, allargo le braccia e dico non so cosa dire, tu fallo, perché questa è la regola, la sacra regola. Berlusconi, vogliamo sentirlo? Lui aveva la carica virale, il suo tampone, non lui, più alta di tutta la storia del San Raffaele, primo anche in quello. Comunque Berlusconi ce l'ha fatta, sentiamo. Lo dico con emozione, grazie al cielo e grazie alla professionalità dei medici del San Raffaele, prima tra tutti il professor Alberto Zangrillo e i suoi collaboratori, ho superato quello che considero la prova forse più pericolosa della mia vita. E va bene, Silvio Berlusconi ora andrà in quarantena in attesa del secondo tampone negativo. Dai, andiamo un attimo in pubblicità, che vedo che si aggira in maniera losca il signor Bonetti. Uno, nessuno, 100 Milan. Mia moglie è educatrice specializzata in autismo, ha fatto anni e anni di studio. L'insegnante di sostegno che segue i suoi bambini è un ingegnere edile. Finite le ore coi bambini, entra in studio di progettazione. Puoi pensare a te cosa gliene può fregare. Milan, ti do una notizia bomba, i cinesi hanno licenziato due agenti segreti dello spionaggio cinese perché mancava nella lista Leonardo Manera, perché ha detto il capo, come mai mancale Manela, più grande comico triste italiano. triste sarebbe, vabbè, giusto per fare in maniera così... Buongiorno, buongiorno. Invitazione. Leonardo Manera, effettivamente non sei nella lista dell'agenzia cinese che spia tutti. Dov'è che la lista? Però mi è venuta voglia di votare per un'altra lista. Io è da un anno che sento la pubblicità di Enasarco. E stamattina c'è la grande novità, ho visto la lista numero 2. Perché fino adesso sentivo la pubblicità solo della lista numero 1, fare presto. Adesso c'è la lista numero 2, Enasarco libera. Ecco. Io voglio votare per le elezioni Enasarco. Sì. Non so come si fa, devo iscrivermi a... Sì, ma hai anche deciso... No, so che c'è votare. La lista 1, fare presto, e la lista 2, Enasarco libera. Non so se ce ne sono altre, non ma voglio votare anch'io. Per le lezioni. Oh, meno male che gli ho detto: no, ma dai, non commentare sta roba, la pubblicità. Tu poi vai a metterti in un ginepraio di persone che poi ci tengono e si arrabbiano. Ma mi piace, ma visto adesso poi ti lascio andare tutto quello che vuoi. No. Siamo degli anticipatori. Anzi, io sono un anticipatore. Ecco. Stavolta mi lodo, mi autolodo. Imbrodati. La ministra Azzolina chi ha citato ieri? Itaca. Io di cosa avevo parlato pochi giorni fa? Di Ulisse che si trovava nell'isola di Ogigia. Insieme alla dea Calipso che gli aveva promesso l'immortalità. Anticipatori, se tu prendi come al solito la tua consulenza da 70.000 euro ogni anno dal Ministero dell'Istruzione, non è che sei un anticipatore, semplicemente gli avrai scritto, no, profumatamente pagato, insomma, con quella tua consulenza, quella che ti è andata al Ministero. Per la ministra Azzolini. Però quella che ti rinnovano ogni anno al Ministero dell'Istruzione. Sì, cioè. Rilevo anche che la ministra è un po' ottimista. Perché lei considera il primo giorno di scuola come se già fosse Itaca, e invece poi Itaca sarà l'ultimo giorno di scuola. Forse. Quindi, ministra, si rivolga a me che io le do una consulenza, diciamo, più adeguata. Gratuita. Questo è da vedere. Però la mia metafora era un po' più complessa, perché parlava dell'isola di Ogigia, Calipso. Capito, ma nera è più complessa. Ministra Azzolina è un po' più... Terra-terra, ecco. No, dico anzi che... terra-mare. Sì, terra-mare. Terra-mare, vabbè. Dai, però siamo degli anticipatori. Tu sì. Soprattutto. 9:37 minuti, cari ascoltatori, adesso dobbiamo parlare invece di questa notizia che da alcuni giorni mi inquieta, devo dire mi inquieta. È la vicenda di Pisticci, a Matera, dove l'accusa nei confronti di diversi giovani tra i 18 e i 19 anni, poi si è detto alcuni sono dei trapper locali, cioè questa musica dove i riferimenti nei testi sono anche abbastanza espliciti, sono accusati di avere violentato in una festa due ragazzine quindicenni. Mi ha molto colpito anche perché il procuratore di Matera le ha definite due bambine. Oggi tra l'altro c'è sul Corriere della Sera un'intervista al padre di una di queste due ragazzine. È un signore che 40 anni fa è emigrato in Inghilterra, in Gran Bretagna, e ora dice: devono pentirsi questi ragazzi, che almeno possano ricominciare una nuova vita. Io voglio salutare il sindaco di Pisticci, Viviana Verri, la ringraziamo per essere qui. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie a voi. Perché quando capitano queste cose, da sindaco, da primo cittadino, bisogna anche affrontare, come dire, la responsabilità di interpretare il sentimento di una comunità. Lei è anche donna, quindi se mi permette c'è doppiamente un ruolo molto interessante da capire. Intanto come vivete questa situazione che ha fatto piombare Pisticci un po' nell'incubo? Beh, sicuramente per noi è una situazione terribile, la città è rimasta sconvolta dopo aver appreso di questa notizia, di questo fatto di cronaca. Quindi ha reagito dapprima con un senso di smarrimento, con una comprensibile rabbia, poi è subentrata una grande solidarietà che è stata testimoniata in tutti i modi alla famiglia delle due ragazze e alle ragazze stesse. Non so se avete avuto modo di vedere un po' sui giornali, è venuto fuori uno striscione che alcuni cittadini hanno voluto collocare proprio sotto il palazzo comunale, che dice: noi non siamo così. Questo per dire che questa comunità è altro dalla violenza, anzi la violenza la condanna, la respinge fermamente. Guardi, il padre oggi lo dice proprio nell'intervista al Corriere: ho avuto tanta solidarietà dai compaesani, mi hanno detto non devi giudicarci tutti allo stesso modo, che è un po' quello che lei ci ha detto, il senso di quello striscione. No? Sì, assolutamente. Credo che questo padre però abbia già detto: io li capisco, nel senso che tornerò in questo paese, torneremo, non c'è l'idea di marchiare una comunità per quello che è successo. Certo, dice anche: questi ragazzi sono degli sbandati, dei delinquenti. Pisticci quanti abitanti fa, sindaco? Pisticci ha 17.600 abitanti. Quindi è una cittadina anche abbastanza grande, non è che si può dire ci si conosce tutti, però magari qualche conoscenza c'è, no? Riguarda questi ragazzi. Lei conosce il contesto in cui sono cresciuti? Beh, indubbiamente in un paese ci conosciamo, se non tutti, quasi tutti. Questi ragazzi ovviamente erano conosciuti a un po' tutti noi. Provengono da contesti alquanto diversi l'uno dall'altro. Per alcuni di loro possiamo dire purtroppo che non è la prima volta che hanno a che fare con la giustizia. Certo, a questo punto non si era mai arrivati e siamo rimasti tutti sconvolti nell'apprendere anche che fossero loro i presunti colpevoli, perché in questa fase dobbiamo usare sempre un po' di cautela nelle per carità, certo. Diciamo che bisogna accertare le responsabilità, che ci sia stata una violenza su queste due ragazzine, questo è stato purtroppo appurato. Sì, no, questo è purtroppo successo, però è chiaro che adesso in questa fase le forze dell'ordine faranno il loro lavoro, anzi approfitto per ringraziare tutte le forze dell'ordine che hanno lavorato con grande celerità su questa vicenda, e questo ha permesso già di ottenere degli importanti risultati. Noi vogliamo che venga fatta giustizia, ma non che venga fatta giustizia privata o giustizialismo, perché adesso un'altra cosa che ci preoccupa molto è che c'è tanta rabbia nei confronti di queste persone e purtroppo anche delle famiglie che non meritano anche questo, a mio parere. Quindi è il momento di abbassare un po' i toni. Sì, devo dire che ci arriva un messaggio da Miriam, mi fa piacere, quindi un'ascoltatrice, che dice: aspettiamo il cretino che dirà cosa facevano in giro delle ragazzine, cosa ci facevano a una festa, come erano vestite, insomma le solite cose odiose che per il momento, per la verità, non credo che commenti del genere non ce ne siano stati tantissimi. Poi sono parole che si sentono sempre meno, per la verità, queste. Sì. Però ci sono, erano una festa, che diamine, sì. 15 anni erano lì in vacanza, non possono facciamo andare alla festa. Ragazze di 15 anni non hanno alcuna colpa, è assurdo dare qualunque tipo di colpa alle ragazze. Questo sicuramente. Senta, voi avete pensato di costituirvi parte civile o pensate di fare qualche tipo di iniziativa come comunità? Sì, assolutamente, abbiamo pensato di chiedere la costituzione di parte civile appena ne avremo la possibilità. Ci stiamo mettendo in contatto con i legali della famiglia anche per questo, e devo dire che abbiamo ricevuto molte testimonianze di solidarietà anche da altre istituzioni o comunque dai comitati regionali pari opportunità, con i quali vorremmo organizzare un qualcosa, insomma una manifestazione o qualcosa che magari utilizzando anche consentitemi l'espressione, le scuole, che sono un punto importante della crescita dei ragazzi, sono il luogo giusto dove far partire questi messaggi. Probabilmente anche questi ragazzi si potevano in qualche modo salvare un po' da se stessi, direi, e quindi dobbiamo evitare che quello che è successo possa in qualche modo così turbare la serenità del nostro territorio e dei ragazzi. Quindi vogliamo dare un forte segnale, pensiamo di farlo come istituzione, sia costituendoci parte civile nel procedimento penale a tutela di tutta la comunità e della sua immagine e della sua serenità, sia cercando di far arrivare forti messaggi ai ragazzi che, insomma, devo dire, da soli già loro hanno manifestato il loro volersi dissociare da queste forme di violenza. Questo è un segnale incoraggiante. No, ma non c'è dubbio, certo, colpisce molto sentire le parole di questo padre che è intervistato al Corriere della Sera. Dice: mia figlia, una ragazzina molto forte, energica, certo, aveva il sorriso più luminoso delle stelle, ora non ce l'ha più. E questa è una delle due, ma sono due ragazzine. Sindaco, io la ringrazio, la ringraziamo per essere stata qui. Sindaco di Pisticci, Matera, Viviana, Verri. Caro Leonardo, saltiamo prima del traffico. Ti volevo sottoporre questa storia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha cambiato le regole per salutarsi. Devo dire che io... Non va più bene il gomito. Sì, con l'anti-empatico maniera è già tanto se ci salutiamo con un sopracciglio così. Ciao. Adesso il gomito quindi non va più bene. Il gomito non va più bene perché... Cosa bisogna usare? Un contatto, non lo so. O come tra di noi... Dici che ha cambiato le regole? o come tra di noi una fredda occhiatina, sì, oppure? Oppure che ne so, c'è chi dice il namaste indiano o ciao agitando la mano ma senza toccarsi, oppure la mano sul cuore, è vero, quella, ciao, niente che si batte sul cuore e... torno a casa, questa notizia mi ha demoralizzato, ciao, ci vediamo ciao, lunedì, ciao, sì, però non stringermi la mano, cioè, ciao e mi porge la mano, cioè. Vo a casa, come dicono in Toscana, vo a casa. Questa, perché ti ha rattristato? Ma perché siamo all'eccesso. Siamo all'eccesso dal mio punto di vista. Vabbè, allora ti rallegro con questa. Vediamo se provo. Cioè, devo trovare. Ecco, si potrebbe partire con una nuova rubrica: come fare tirare su di morale Leonardo Manera. Con delle notizie. Io ti sottopongo delle notizie. Tu mi. C'è vita forse su Venere. Capì, ma chi mi ci porta? Non è che c'è vita su Venere, vado lì. Chiamiamo Luca Perri, il nostro amico astrofisico, c'è un passaggio lo troverà. C'è un autobus che puoi riempire l'80% che ti porta su Venere. Che vita c'è poi su Venere? Hanno trovato la fosfina. Una cosa per far crescere i capelli, sembra no. Come nome. Metti la fosfina che blocca la caduta dei capelli. L'ipotesi che sia prodotta da batteri, orca miseria, i batteri anche lì, e ci sono tracce di fosfina. Sì. Sei un po' ignorante, sei un po'. Per esempio, il nostro professor Picchiolo saprebbe che cos'è la fosfina. Ma non voglio nemmeno rispondere. Ignoranza generalizzata, non sapete niente. Ignoranti, non sapete nemmeno cos'è la fosfina. Mi stavo uscendo Ronchi Baronchelli. La fosfina io non so che cos'è, però lei, professor Picchio, sicuramente lo saprà. Ma guardi, lei è di un'ignoranza totale, completa ed assoluta. Vabbè. Comunque ci sono tracce di fosfina e quindi forse c'è vita su Venere. Questa notizia non ti... No, non mi tira su di morale perché è un tipo di vita che io non potrò mai conoscere, insomma, è lontana da me. Quindi. Allora, guardate, non lo so, proviamo con il traffico, magari il traffico lo tira più su di morale. Amici ascoltatori, allegria! Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno dottor Milan, sa cosa c'è che non va? Che da 3 mesi e mezzo l'INPS si prende i suoi tempi e non ci eroga neanche un euro. Ecco cosa c'è che non va. I giornali, la televisione, adesso tutto sulla scuola. Così magari ci scordiamo di tutti gli altri problemi, perché questo è quello che vogliono. Ma che ma io e la mia famiglia da 3 mesi e mezzo abbiamo visto 196 euro fino al 10 di giugno. Dopo non ho mai visto nient'altro. E va bene, il nostro ascoltatore, vedi? Manera, sei un mito, ma ti prego non ironizzare con le Nasarco. Guarda, che tu, ma non ironizzo. Tu non sai, mi è venuta voglia di... non ironizzo. No. Non mi ironizzo. È venuta voglia di partecipare a quelle votazioni. Non so se votare per la lista 1 o la 2, non so se ce ne sono altre, ma sono quelle di cui sento la pubblicità qui in radio. Vabbè. Non toccare le Nasarco. Allora, intanto a te il microfono, ma fai il bravo. Allora, il problema sono quelle due linee di febbre, ovvero cosa fare quando una mattina ti svegli, ti senti leggerissimamente caldo e termometro alla mano scopri di avere quelle due linee di febbre. Vista la situazione, probabilmente bisognerebbe avvisare subito il medico di base, il quale potrebbe richiedere il tampone. Certo, due linee di febbre possono venire per qualsiasi cosa. A me vengono per esempio anche al pensiero di prendere la metropolitana. C'è gente che arriva a 37,5 anche durante la digestione e noi affidiamo tutto come un feticcio a quei misuratori di temperatura che ti puntano in fronte, che talvolta rilevano la temperatura con la stessa precisione che aveva Egidio Calloni nel calciare in porta. Sento narrare episodi in cui la febbre misurata con quegli apparecchi dava 32, 33, 27,5. Ma nell'attesa, con due linee di febbre, cosa succede? Bisognerebbe stare a casa dal lavoro, avvisare tutti i parenti, quelli con cui si è venuti a contatto, poi la scuola se si ha un figlio, la quale ipoteticamente potrebbe mettere tutti in quarantena, e poi i negozianti con i quali si è avuto a che fare, i frequentatori della palestra, i partecipanti all'assemblea condominiale, il postino al quale si è firmato l'avviso di ricevimento della raccomandata. in pochi passaggi, si potrebbe arrivare anche alla quarantena del presidente degli Stati Uniti. Insomma, due linee di febbre di uno qualsiasi di noi potrebbero portare a mettere in quarantena il mondo. D'altra parte, a quanto pare, è a causa di un solo pipistrello che si è quasi fermato tutto il mondo. Quelle due linee di febbre potrebbero scatenare una valanga di reazioni, eppure credo che sia la domanda che tutti noi ci siamo fatti e di questi tempi ci facciamo quotidianamente. Come mi comporto se una mattina scopro di avere due linee di febbre e magari un po' di mal di gola? C'è gente che immediatamente pensa: ho 37,2 di febbre, sto morendo, altri che reagiscono diversamente. Ho sentito persone che si sono trovate in questa situazione e la risposta che si sono dati è: vedo come va per un paio di giorni e poi eventualmente avverto il medico. L'importante è non andare in giro se si hanno sintomi, ma quanti di noi è capitato anche la scorsa estate di svegliarsi un mattino con un po' di raffreddore, il naso che cola, anche un 37,5 di febbre ed essersi detti: probabilmente sarà lo sbalzo tra l'aria condizionata e il caldo che c'è fuori, ed esserci così autoassolti. E poi, se dopo due giorni andava meglio, si è dimenticata la questione, anche se magari ipoteticamente poteva essere una forma di coronavirus. Insomma, molto si è lasciato al buon senso personale, come è giusto che sia, perché non si può regolamentare tutto, come testimonia il fatto che appena fuori da scuola i ragazzi abbassano la mascherina e cominciano a parlare come si faceva una volta, quando ancora non si sapeva che il gomito serve per starnutirci dentro. Molte volte nel corso di quest'anno avremo la febbre e non necessariamente sarà coronavirus, potrà essere influenza, forme para e influenzali, la digestione del cotechino, oppure anche patologie che rispetto al coronavirus sono anche più gravi, ma che ora quasi sembrano non esistere più. Verrà un giorno in cui l'ansiogeno bollettino dei tamponati e dei positivi verrà dimenticato, in cui potremo riprenderci la nostra vita e in cui due linee di febbre in una mattina qualsiasi non rischieranno di paralizzare il mondo intero. Eccolo lì. Cos'hai adesso, contro di me? No, adesso ti prendi tu. Tu avrai... insulti, minimizzi. Io non minimizzo, è lei che minimizza. Tu minimizzi. A minimizzare sarà lei, caro Milan, io non minimizzo. No, tu minimizzi. Questo potremmo andare avanti con questa gag. Stucchevole. Per la serie gag stucchevoli. Esatto, potremmo anche fare quello. Va bene, ci chiama Paola da Roma. Buongiorno Paolo, scusate, ho fatto un piccolo colpo stamattina di tosse. Stamattina non stai bene, vorrei... secondo me hai due linee di febbre. Stamattina ti vedo un po' diverso dal solito, sei un po' provato, hai dormito bene. Ho comprato, hai misurato a la 45 temperatura. Euro la pistola per misurare sulla fronte, ce la siamo misurate tutte e tre questa mattina e a posto. Poi mi ha misurata per entrare qui, era 36,4. Va bene, un po' da geco anch'io. Paola da Roma, buongiorno Paola. Buongiorno, grazie di esserci e bentornati. Grazie. Io sono un'insegnante in quiescenza da un anno, ma certamente non ho dimenticato la mia lunga esperienza. E allora volevo fornirvi un paio di argomenti di riflessione, non dico risposta, ma comunque a corredo di quello che stavate dicendo prima riguardo la grave situazione degli insegnanti, soprattutto gli insegnanti di sostegno. Sono stata anche io un insegnante di sostegno ed è indubbiamente un'esperienza profonda che ti cambia profondamente, che ti coinvolge. Non è detto che il professore, che era un ingegnere, non abbia avuto quella capacità empatica, che è uno degli elementi che meglio sono utili per fare l'insegnante per poter riuscire. Esattamente. Allora, no, ma infatti io non giudico, certo, l'ascoltatore mi ha dato questo messaggio dicendo fa l'ingegnere e fa anche l'insegnante di sostegno. Stona un po', messa così, no? Sì, è chiaro. Anche questo però ci ripete una cosa: che l'insegnante è una specie di rifugio per stato oro, ma il discorso dell'attività dell'insegnante, e che il nostro stato non è lungimirante, perché vive qui e ora, e spiego perché. Riguardo ad esempio gli insegnanti di sostegno. Gli insegnanti di sostegno, il numero degli insegnanti di sostegno è fluttuante, perché soprattutto i ragazzini con diversamente abili hanno un numero variabile durante il corso degli anni della scuola, così anche per carità, anche per gli altri ragazzini, però il numero è fluttuante. Allora che succede? Succede che lo Stato, il quale ministero ogni anno ha un budget, per non sforare questo budget, quindi chiaramente per non dare alla scuola l'importanza che dovrebbe avere, che fa? Riduce il ruolo. Tant'è vero che la signora che ha chiamato ha detto: mia figlia ha immediatamente avuto l'insegnante di sostegno perché ha un insegnante di ruolo. L'insegnante a tempo determinato, che è soggetto a tutti quei sistemi di reclutamento informatizzati che amico, ma in Italia non funziona. Sì, non funziona. Ogni anno. Allora, che succede? Succede che l'incaricato a tempo determinato non viene pagato a luglio agosto. No, ma è chiaro. Sì, sì, Paola, noi la ringraziamo per questa delucidazione, visto che, se abbiamo capito bene, ha vissuto una vita nel mondo della scuola. Allora, adesso andiamo a sentire le informazioni del giornale. Sembri provato stamattina. No, mi ha colpito questa notizia di cui sentiremo anche qualche dettaglio nel giornale radio, immagino, a Como, l'uccisione del prete degli ultimi, così è stato definito, Don Roberto Malgesini, è stato ucciso questa mattina, pare, tra l'altro lui era il coordinatore dei volontari che ogni mattina portano la colazione agli emarginati, gli ultimi, pare da un uomo che si è costituito senza tetto, di origini straniere, con problemi psichici. E stamattina alle 7 pare con una coltellata. Insomma, è così. Che dobbiamo dire? Niente, no? Sentiamo i particolari nel giornale radio, però mi ha colpito molto questa notizia e ci ritroviamo subito dopo. Invece parleremo della vicenda tra noi, la Libia, alcuni pescatori di Mazara del Vallo che sono stati arrestati, sono a Bengasi, e la Libia dice: per ridarveli noi vogliamo indietro 4 calciatori che voi avete nelle vostre carceri, solo che quelli che a loro risultano come calciatori da noi risultano come degli scafisti assassini brutali. Come finirà? Ti ricordi che c'era il figlio di Gheddafi che giocava a pallone? Sì, anche a Perugia, anche nella Juve, era andato anche alla Juve. Ma forse sì, a fare un provino. No, è stato in panchina alla Juve. Alla Juve? Sì. Oh, andiamo al giornale. Vedi che Lorenzo conferma, Lorenzo che ne sa. Ah, perché adesso si occupa di sport, è vero, il giornale. Il segnale orario vi è offerto da gsrisarcimentodanni.it, la forza di cui hai bisogno. Uno, nessuno, 100 Milan. Basta con questa storia che i bambini devono tenere la mascherina nei banchi per tutta la mattina. Ma è così. Non è vero, è stato detto in tutte non le salse. I bambini, quando sono seduti al banco a distanza di sicurezza uno dall'altro, possono togliere la mascherina. Ascoltatore. Quindi, caro smettiamola ascoltatore, con queste storie. Smettiamola, per favore. Caro ascoltatore, se vuole la faccio parlare con mio figlio Mattia, anche a me. E anche a noi, alla riunione di inizio anno, hanno detto così. Poi, al primo giorno è arrivata una circolare della preside che modifica la situazione e ha detto che i ragazzi devono tenere sempre la mascherina, anche se seduti in classe. Se vuole le mando la circolare. Ma ragazzi, una, ma è io una non iniziativa... lo so, ma la gente non si fida neanche, cioè come beh, se conoscendoti, uno... ma sì, va bene, ma questo è vero. È una iniziativa isolata di quella scuola? Beh, o... adesso non lo so, no, io credo di no, ascoltatori ci dicono che è così. Diciamo che, allora, la questione è, devi stare a un metro, siccome però i ragazzi... un pochino si muovono perché non li hanno ancora messi nelle colonne di cemento. Non te devi da muove. Allora, se iniziano a muoversi di 10 centimetri, ecco allora che sono intervenuti dicendo: beh, allora se è così, con una circolare più restrittiva stabiliamo che, siccome muovendovi, girando la testa magari, vi avvicinate riducendo dal metro a 90 centimetri, allora chiediamo che tengano la mascherina tutto il tempo. Così succede, basta, per esempio, a scuola. Basta con queste polemiche, non è vero che non i ragazzi a scuola devono tenere la mascherina, basta con queste polemiche. Ovviamente ieri è stato detto dappertutto, se tu lo dici per i tuoi motivi politici, no, perché sei un po' contro il movimento 5 Stelle, allora dillo chiaramente, no, no, almeno no. Capiamo com'è che la pensi. No, no, Garosio che non è così. Sono Garosio, Garosio è diverso. No, allora. Allora, tra l'altro ieri è partita ovviamente una chat di classe, come potete immaginare, che a un certo punto uscivano le fiamme dal telefonino, no? I genitori molto arrabbiati per questo cambio di situazione. Al momento la situazione da mio figlio è così. Punto, caro ascoltatore, che lei ci creda o no. Basta con queste falsità, non è vero, possono evitare la mascherina a scuola. Se sei contro i 5 Stelle, dillo subito. Non sono contro i 5 Stelle in questo caso. Non la ministra Azzolina è la migliore ministra dell'istruzione, della storia dell'Italia. Secondo me anche di Venere. Dell'Italia. Anche di Venere. Si è data da fare fin dall'inizio. Marte, Terra e Venere. Ha immaginato soluzioni diverse, mai immaginate prima per tutti, ma anche il monoposto, ma anche con le rotelle, di tutto, cosa che nessun altro prima aveva fatto. Se sei contro l'Azzolina e vuoi tornare a quella che c'era prima, la ministra Fedeli, che non era neanche laureata, abbiamo capito da che parte stai. Milan, io lo so che tu sei grillino dentro, lo so, dillo che sei grillino questo dentro. Questo era un vecchio ascoltatore. Ma vogliamo salutare con grande piacere il nostro amico Stefano Geller, che è arrivato al mare. Stefano! Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori. Il nostro grande Stefano Geller, che noi abbiamo conosciuto da qualche mese. Ragazzo, insomma, posso dire ragazzo, ormai sei un vecchiaccio, un vecchiaccio come tutti noi. Scherzo. E lo ricordiamo, è affetto da distrofia facio-scapolo-merale. E aveva questo sogno di andare al mare. Esatto, grazie a voi. No, ma questo no, grazie a chi noi abbiamo fatto solo da tramite, grazie a chi ti ospita, ti aiuta, ti... Ah, infatti sono qua in compagnia di Franco. Grande Franco. Chi è Franco? Ciao Franco, grazie. No, sì, ma adesso ce lo passi. Prima dici dove sei e se hai già visto il mare, sei arrivato ieri, sappiamo. Sì, sarà Stella Maris. A Bibione, ieri ho già visto il mare, adesso mi sto preparando per andare di nuovo in spiaggia. Sono stato là anche ieri sera ad ammirare anche con il buio, il rumore del mare, era una cosa fantastica e bello. Contentissimo. Tra l'altro sembrano ancora giorni di piena estate questi, per la temperatura. Sì. È arrivato il caldo. Sì, sono bellissime giornate. Bello. Ci sarà un po' umido lì a Bellare, questo sì, perché è una zona molto umida, un po' di zanzare. Ecco. Pochissime. Sarà pieno di zanzare lì a Bellare. Buon Leonardo che è invidioso perché vorrebbe essere al tuo posto lì a Bibione, capisci? Bellare o Bibione, non ricordo. Bibione. E Franco chi è? Franco, ciao, Stella Maris. Ciao. Io sono il direttore della struttura, della diocesi di Treviso, una struttura fatta nel 2015, pensata per i disabili. Bene, a noi vi dobbiamo molto ringraziare perché avete accolto questo appello. Quando ho sentito l'appello vostro in radio, la nostra struttura è adatta a Stefano, allora vi ho contattato ed adesso è qua con noi. Ti fa molto piacere. Bisognerebbe risolvere questo problema delle zanzare lì nella vostra struttura. No, noi abbiamo risolto, noi non ce ne sono, abbiamo il giardino, siccome abbiamo un giardino abbastanza grande, qui non ce ne sono quest'anno. Sì, ma Franco, ma non devi stare dietro a Leonardo, cioè tu devi fare finta che sia una zanzara, appunto, che in sottofondo parla. E fa concorrenza. E quanti ragazze ospitate lì? La struttura ospita 160 posti letto, 60 camere. Di solito noi, normalmente, non quest'anno, vengono tante cooperative sociali o volontari con i ragazzi disabili. Quest'anno purtroppo loro sono saltati tutti perché discorso non potevano dormire insieme in camera e abbiamo ospitato persone nuove, sempre abbastanza disabili comunque, perché la struttura si presta, è fatta bene per questo. Fatta bene. Come si comporta il nostro Stefano? Bene, ieri ha fatto un po' i capricci, non gli ho dato mangiare ieri sera quasi. Ecco, bene. No, comunque bene, dai, abbiamo una settimana di tempo per conoscerci e per dire bene la sua storia. Bello, bello. Ma mi sembra un'iniziativa bellissima quella che fate, indipendentemente da questa settimana, insomma, quindi mi sembra anche giusto parlare di voi. Stefano, tu qual è l'emozione più così, il primo pensiero quando hai visto il mare dopo tanti anni, il primo pensiero che ti è venuto in mente o la prima emozione, riesci a spiegarci? Pensiero di libertà, di volare, qualcosa di, ecco, di immenso, vedere il mare sempre, ecco, una cosa che ti libera l'anima, i pensieri, queste cose qua, ecco. Ti sta passando la voglia di andare a New York, preferisci stare, sì, lì, esatto, a Bibione? Dici, ma perché devo andare a New York se c'è Bibione? No, dai, quello è il sogno secondo che mettiamo, esatto. Facciamo una lista e ricordiamo che anche a New York avevamo già trovato persone disposte a ospitarti, sì, a New York, sì. Poi adesso insomma è tutto un po' più complicato. Sì, tra l'altro anche a New York c'è il mare, quindi sì. Si può andare anche lì. E le zanzare? No, quelle sono a Bibione. Non ci sono, c'è Franco che niente vuol tenere il punto su questo. Non ci... Allora, noi vi salutiamo, vi lasciamo questa settimana. Oh, Stefano, comportati bene però, perché sei arrivato lì, non fare tribolare Franco e i suoi collaboratori, perché altrimenti ti redarguiamo anche noi. No, goditela veramente questa settimana. Grazie a Stefano Geller, grazie a Franco, direttore Stella Maris Bibione, questa struttura che accoglie tante persone con diverse abilità. E viva, insomma, questa settimana zanzara free, nel senso di Bibione, no? Non è che abbiamo... Sai che è una zanzara che vive in camera mia, in tutte le stagioni dell'anno. Io vado a letto e a un certo punto, dopo, la cugina del pipistrello, dopo 20 minuti comincio a sentire... Sai che anch'io in tutte le stagioni dell'anno, questo mi lascia molto perplesso. Sai che anch'io sento delle zanzare, perché il caldo ha riavvivato, insomma, le zanzare, però poi dopo non la vedo mai al mattino, cioè pure ho le pareti bianche, quindi si dovrebbe vedere. Magari è mia figlia che mi ha messo un è una curiosità scientifica: dove vanno le zanzare a Natale? Cioè, ci sono, esistono? Ora, sfida Luchetti o sfida Fusconi, visto che qua... Dove, allora, sfida Luchetti, diciamo, la chiamiamo sfida Luchetti in generale. Ripeti bene la domanda, la curiosità scientifica. Dove vanno le zanzare a Natale? Nei paesi, secondo tipo me, l'Italia. Secondo me stanno tipo in una sorta di letargo nelle uova. Ecco, le zanzare vanno in letargo, non questa è la domanda. Si chiudono le uova solo con il caldo. Bisognerebbe verificare, questa è una curiosità scientifica. Diamo voce anche alla scienza qui in questa trasmissione. Sì. Diamo voce anche al traffico. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... 1, nessuno, 100 Milan. La stretta di mano è abolita. Il tocco di gomito è abolito. Da oggi si saluta romanamente. A noi! Ciao Alessandro e Leonardo, sono Ale da Brescia. Si deve salutare come si fa in Giappone, con l'inchino senza toccarsi. Vabbè. Meglio di così... E loro questo metodo di saluto lo utilizzano già da secoli. Ciao a tutti, sono sempre più avanti di noi. Allora, la sfida Luchetti, eccolo qua. Vedi, avevo ragione io un pochino. Cioè, la zanzara tigre non sopravvive all'inverno da insetti adulti. Ad arrivare alla primavera sono le uova, che restano in una sorta di letargo chiamato via pausa. Quindi l'inverno non c'è la zanzara tigre, perché l'insetto, cioè l'animale, non c'è più. Però ci sono delle uova che rimangono letargate, rimangono in diapausa. Senza che nessuno le covi. Adesso, poi ci sono altre specie. La specie più comune in Italia, per esempio, no? Entrano invece nello stato di diapausa come adulti. Dia? Da cosa deriva? Dia? Cerchiamo dal greco dia. Vabbè, questo, dia. Questo letargo, cioè anche gli adulti, le zanzare le trovi così in letargo. Va bene. E quindi è per quello che d'inverno non ci sono, perché no, quelle stanno in cantine, adulte in soffitte, muoiono stanno... prima. E poi ci sono solo le uova. Sì. Quelle tigre. E invece le altre, quelle comuni in Italia, vanno gli insetti proprio in letargo, li trovi così, fermi, immobili. Vabbè, finito l'angolo della scienza, torniamo alla questione invece che avevo citato anche in apertura. Allora, oggi sui giornali trovate, secondo me un po' colpevolmente ci siamo svegliati in ritardo, perché sono diversi giorni che 18 nostri connazionali, pescatori siciliani di Mazara, sono tenuti a Bengasi, anzi detenuti, bisogna dire, a Bengasi, non detenuti in carcere, ma tenuti e privati della libertà dalle milizie di Khalifa Haftar. Dunque l'accusa è quella solita, di avere sconfinato durante la pesca nelle acque territoriali libiche. Saluto Marco Marrone, che è l'armatore del Medinea. Buongiorno Marrone, grazie di essere qui. Buongiorno. È uno dei due pescherecci che sono stati sequestrati con persone a bordo. Saluto anche Rosaria Giacalone, che è la moglie del direttore di macchine del peschereccio Medinea. Buongiorno signora Rosaria, grazie. Adesso è caduta la linea, ma la recuperiamo. Allora, che cosa dicono i libici? Sì, noi vi ridiamo questi pescatori, però voi in cambio dovete darci 4 calciatori che avete in Italia. Solo che questi calciatori per la Procura di Catania sono degli scafisti. Alcuni di loro sono accusati di avere con orrore rinchiuso addirittura 49 migranti, sprangando il boccaporto e portando alla loro morte, chiudendoli. Allora, Marrone, intanto, voi che cosa sapete del destino dei vostri pescatori, dei nostri connazionali? Allora, guardi, innanzitutto questo discorso dei libici che chiedono i calciatori non ha nessuna conferma da parte della nostra Farnesina, del nostro governo. Quindi penso soprattutto sia un fatto più mediatico in questo momento che altro. Noi fortunatamente oggi siamo riusciti ad avere una videoconferenza con il ministro Di Maio direttamente, sì. Abbiamo sentito dalla... Ecco, cosa vi ha detto? Possiamo saperlo? Sì, ci mancherebbe. Ci ha rassicurati che comunque il governo sta lavorando sin dalle prime ore di quando è successo il sequestro. Ci ha rassicurato che stanno tutti bene, come avete anticipato poco fa voi, non sono prigionieri o comunque in carcere, sono semplicemente stato di fermo, sì. Quindi comunque trattati bene e quant'altro, e ci ha garantito soprattutto, ci ha promesso, ci ha garantito che... L'impegno dell'Italia. Mi faccia salutare la signora Rosaria che ci ha raggiunto. Signora, buongiorno. Buongiorno. Sì. Suo marito è, insomma, è una di queste persone che è detenuta, tenuta in privazione di libertà. Ma lei riesce, cioè vi potete parlare? Con mio marito no. Non possiamo comunicare, no. Cioè, quindi sono senza un cellulare, senza un telefono? Sì, hanno i cellulari sequestrati, hanno tutto sequestrato, sì. E questa è già la situazione. Io... Marco Marrone, lei dice la questione del calciatore eccetera, però è la questione che campeggia sui giornali, cioè ci sono delle foto prodotte dai libici, senza ombra di dubbio là in Libia stanno parte della popolazione, comunque magari dai familiari di queste persone stanno chiedendo al loro generale questa trattativa, ripeto, ma guardi, ho sentito ieri notizie che il generale Haftar addirittura sta ricattando, sono tutte notizie mediatiche, voi fate questo lavoro, capite meglio di me che comunque dico i grossi titoli fanno un po' di scena. Quindi alla fine dico, ripeto, noi abbiamo parlato oggi direttamente, ho visto il ministro Di Maio tramite una videoconferenza. Eravamo in contatto comunque con lui, grazie al nostro sindaco di Mazara del Vallo, il signor Quinci, sì. Che ci ha permesso anche questo, ci ha messo a disposizione un'aula lì al comune. E diciamo, ripeto, che il ministro ci ha rassicurato che la trattativa è sicuramente molto impegnativa, perché comunque già sono passati 15 giorni, sì. Perché comunque sappiamo la situazione che c'è in questo momento in quella parte della Libia, perché ripeto siamo nella zona della Cirenaica, quindi dico la zona dove dove proprio in questo momento c'è la guerriglia, diciamo, che tutti conosciamo. Quindi diciamo la situazione è un po' complessa, però... ma è complessa perché vabbè, calciatore o no, la Libia ha chiesto in cambio questi quattro che per noi li chiamiamo gli scafisti, cioè per noi sono in carcere, cioè questa richiesta c'è stata da parte della Libia. Ripeto, noi questa conferma non l'abbiamo avuto, noi ci stiamo affidando e fidando del nostro governo, del ministro Di Maio. Avete notizia di una richiesta, però, di qualcosa? Esatto, se no perché li terrebbero? Stanno lavorando sicuramente. Guardi, non è che la Farnesina o il ministro Di Maio oggi ci ha detto a noi tutti, armatori e marittimi qua e familiari, ha detto vogliono questo, ora vediamo. Sicuramente non è stato così, perché ci ha rassicurati che comunque le trattative vanno avanti, l'intelligence nostra sta lavorando e quindi... ha fatto la cosa bella positiva, che ha fatto una promessa, ha preso un impegno davanti a tutti noi dicendo porteremo sani e salvi i pescatori, tutti i 18 marittimi con le imbarcazioni, le porteremo sani e salve a casa. Lei, signora Rosaria, mi faccia tornare, signora Rosaria, lei appunto non sa, non può comunicare con no, suo marito, no. Ha fiducia però del fatto che vicenda... Sì. Io ho fiducia perché abbiamo visto il ministro e ci ha rassicurati tutti, ci ha detto che porteranno... il più breve tempo possibile pescatori, sia le barche, pescherecci che pescatori a casa. Sono fiduciosa, sì. Oggi sì, sono fiduciosa. E questo è importante. Io poi devo ricordare anche sempre la Farnesina, cioè il nostro Ministero degli Esteri, il caso Silvia Romano lo insegna. Sono tra degli straordinari funzionari in grado di lavorare in situazioni davvero complicatissime, e sono ammirati in tutto il mondo per la professionalità straordinaria. Certo, questa è una situazione un po' in stallo. Lei, Marrone, dice che questa richiesta ufficialmente, certo il ministro forse non vi ha detto ci hanno chiesto in cambio gli scafisti, però la notizia è uscita un po' su tutti i giornali e proviene anche dalla Libia, quindi che ci sia questo tipo di chiamiamolo ricatto un po' c'è, forse per ottenere magari qualcos'altro in realtà, però con quali, se no, motivazioni vengono detenute queste persone? Questa notizia sicuramente, dico, che parte dalla Libia e magari poi noi qua la riportiamo perché la sentiamo là. Però sì, ma le autorità libiche dicono, cioè a voi, li abbiamo detenuti, li abbiamo qui perché hanno sconfinato. Ma ho capito, e uno per questo viene tenuto 18 giorni, 15 giorni fermo lì. Ma ripeto, stiamo parlando di una zona della Libia dove in questo momento c'è il caos totale, cioè non so se le notizie internazionali le sappiamo tutte, infatti dico alla fine stiamo parlando, ripeto, siamo stati sequestrati, poi al discorso se giustamente o ingiustamente acque territoriali, acque internazionali, questo non potremmo parlare di qua fino a domani mattina. Dico, guardi, le devo dire per onestà, le devo chiedere anche conto di una notizia che è uscita oggi sui giornali, cioè su non so quale giornale, credo Libero, dice questo, che secondo la versione libica sono detenuti in questo momento perché sarebbe stato trovato anche addirittura un carico di stupefacenti a bordo di uno dei due pescherecci. Questo addirittura, quindi noi invece di andare a lavorare adesso facciamo pure questo. Quindi per questo voglio farvi capire quanto è complicata la situazione e quanto magari quella che potrebbe essere la richiesta, cioè da subito, perché poi di questo si tratta. Quindi ripeto, possiamo solo che aver fiducia nel nostro governo che riesca realmente a risolvere la situazione. È la prima volta che vi capitano problemi con le autorità libiche per presunti sconfinamenti? A me personalmente sì, ma alla Marineria di Mazara purtroppo no. Questa è una situazione che purtroppo noi non so quanto conosce la realtà nostra di Mazara del Vallo, ma noi viviamo di pesca da secoli, si può dire, da generazione in generazione. Tutto il mondo conosce i prodotti ittici di Mazara. Giusto, quindi dico, viviamo di pesca e quindi i nostri problemi a volte vengono anche un po' forse trascurati, come dire, oppure oscurati da da quello che realmente viviamo noi. Però nonostante questo, io ripeto, non è un momento di parlare di queste situazioni, perché ripeto, noi abbiamo tante difficoltà, sia noi armatori, sia i pescatori, che poi sono quelle povere persone che realmente vanno in questo momento c'è da portare a casa, da riportare alle loro famiglie. In questo momento il pensiero è questo, di portare a casa i 18 marittimi con le due imbarcazioni, e ripeto, e non possiamo far altro che avere fiducia, ripeto, e oggi sinceramente, perché dopo 14 giorni finalmente abbiamo avuto una risposta concreta direttamente dal ministro Di Maio. Registriamo, e noi con voi insomma vogliamo avere la stessa fiducia e vi ringraziamo, ma in attesa di sviluppi positivi. Davvero ringrazio sia Rosaria Giacalone sia l'armatore del Medinea Marco Marrone, l'altro armatore è il peschereccio Antartide Leonardo Gancitano, e l'altro peschereccio, sono due pescherecci che sono stati sequestrati. Davvero anche noi manteniamo alta questa fiducia e torneremo a sentirvi in attesa di sviluppi positivi. Certo che questa, vedi che ci sono le foto, io oggi ironizzavo, ma c'è poco da ironizzare su questa vicenda, anche Manera ha fatto il calciatore, cioè anch'io ho militato nel campionato delle Acli, qualche foto la posso anche produrre di qualche calciatore, no, perché dalla Libia fanno vedere delle foto di alcuni calciatori, loro dicono che avrebbero militato anche nella Premier League libica, si chiama così credo, Premier League libica, Libyan Premier League. Cioè, insomma, parlano di scambio di persona, e quindi vorrebbero questi quattro calciatori, tra virgolette, e per noi pensa scafisti. Se Mino Raio la trattasse così. Va bene. Calciomercato. Va bene, con questa andiamo alla borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Uno, nessuno, 100 Milan. Damiano da Misinto, anche i miei due figli, quinta elementare e seconda elementare, obbligo di mascherina al banco. Confermo che anche mio figlio in seconda media è costretto a tenere la mascherina tutto il tempo, anche quando è seduto al banco. Quindi non è vero quello che ha detto l'ascoltatore un attimo fa. Informi meglio. No, ragazzi, in realtà è vero, ce n'è un altro alpino? Vai, altri due. Sì, buongiorno, sono un docente di una scuola di Cantù. Da noi regolarmente i ragazzi, una volta seduti, tolgono la mascherina solo quando si alzano per andare in bagno, per uscire, se la devono mettere. La circolare dei presidi, che sono solo delle vittime di questa organizzazione che fa acqua da tutte le parti, riprende l'obbligo della mascherina imposto dalla regione Lombardia. Bravo. Infatti, se non lo facessero, le conseguenze ve le lascio immaginare, visto che sono imputabili a livello penale. È come si diceva qui da giorni, Leonardo. Tutto solo per dire non era di mia responsabilità. Ha ragione questo ascoltatore, cioè è vero che l'indicazione ministeriale è una volta seduti, se non si alzano, se non si muovono, si tolgono la mascherina. Leggo la circolare della preside della scuola di mio figlio. Per ottemperare alla delibera della Regione Lombardia del 10 settembre seguiremo le seguenti indicazioni. Due punti, mascherine. Tutti gli studenti sono tenuti a indossare una mascherina a protezione di naso e bocca durante la permanenza a scuola, anche seduti al proprio posto in classe. La mascherina può essere abbassata al banco solo nel rispetto del distanziamento per brevi periodi, nell'ordine di 2-3 minuti e solo per esigenze fisiologiche. Cioè, capito? Cioè, devi, che ne so, soffiarti il naso, non lo so. Cioè, capito? Quindi, come al solito, ci sono scuole dove sì, è più puntigliosi e va tenuta la mascherina sempre. Io non resisterei. Infatti. Io non, adesso, poi diranno: ci sono quelli che la tengono tutto il giorno, tutta la vita. C'erano quelli che andavano in guerra. Cosa vuoi che sia tenere 5 ore la mascherina? Sì. 5 ore o anche di più a scuola, infatti, tutto il giorno con la mascherina. Secondo me è una cosa. È pieno di ragazzini, a cominciare da mio figlio, che poi vanno a scuola, va bene, lo fanno, ma dicono: papà, è un inferno. Cioè, è un inferno stare. È terribile 6 ore sempre con la mascherina. È terribile. Se... e adesso arriveranno quelli: e tu che soluzione hai? E di toglierla una volta che sei seduto, per esempio. Sì, io capisco che abbassarla, sì, c'è questo problema della responsabilità penale, ma insomma bisogna anche essere realisti e vedere quello che succede fuori. Quindi fuori. Ieri dicevo, sono passato davanti a due scuole e poi anche più tardi, insomma, tutti questi ragazzini che appena fuori si parlano normalmente, quindi senza mascherina, da vicino, poi si dirà: ma la scuola deve sì. Però la realtà è anche quella, quindi bisogna considerare anche la realtà, secondo me. Va bene, c'è... Non credi che... non la pensi anche tu così, Alessandro? Io la penso così, ma non dico nulla, faccio come te, mi ritraggo a testuggine, perché sennò poi la gente inizia a dire: sei minimizzi. Sei un negazionista. No, l'ultima è minimizzi. Lei minimizza! Sai che è l'ultima versione, minimizzi. Oh, ci ha chiamato privato, ogni tanto ci chiama da Bergamo. Buongiorno, buongiorno. Medico privato, medico privato sembra è il nome di battesimo. Privato. Che lavora nel pubblico, no, privato è il nome di battesimo. Certo. Come va? Tiriamo avanti, respiriamo. In questi periodi è già bello. È già bello. Allora. Niente, volevo chiedere il vostro parere, proprio perché anche stamattina l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che ottobre e novembre saranno critici per questo rischio Covid. Sì. Se ritenevate sensato o non azzardato, quando non insensato, che io ho ricevuto come medico di Bergamo che ci saranno le prossime elezioni all'ordine, fine mese, primi di ottobre. Ordine dei medici, ok. Quindi potenzialmente concentrare 4.932 votanti in 24 ore voto 3 giorni. Ma non si vota online? Cioè ormai... Bravo. Io ho chiesto online, l'hanno rifiutato, la legge lo consente, eccetera. Il rischio che segnalo a futura memoria è che se la copresenza, tutta la linea medica della provincia di Bergamo, dovesse essere concomitante con la presenza di un focolaio o di un caso di Covid, quindi contagi, eccetera, eccetera, quarantena, noi rischiamo di mettere fuori combattimento tutta la linea sanitaria della provincia di Bergamo. Sì, non è molto intelligente, come dire, rischiare di creare un focolaio tra i medici. Il rischio che io Ma è un po' intravedo. È un po' incredibile che non si voti online, effettivamente, perché cioè, ormai la tecnologia aiuta, ma perché non c'è? Cioè, cosa invece bisogna andare a votare fisicamente in un luogo? Fisicamente in presenza, sì, in presenza. Vabbè. Quindi calcolando 4.932, anche proprio in termini statistici, diviso 24 ore, che è il tempo per votare, sono 205 medici all'ora, 3 medici al minuto, cioè una cosa che non sta né in cielo né in terra. Se vanno tutti a votare, poi non è detto che tutti vadano a votare. Va bene. Grazie comunque, privato, questo tema c'è, ma scusate, adesso devo andare un attimo da Anacleto. No, hanno messo subito le ambulanze. Ma che cosa va? Scusa, no, mi arriva questo messaggio. Lo hanno fermato. No, ora ti spiego una cosa. Buongiorno a tutti. Prima buongiorno di tutti, e poi... saluti alla chiesina. Saluti alla chiesina e alla cara amica Luisa, che ieri mattina ero a chiesina e poi ti spiegherò. Sì. Mi ha fermato e mi ha detto: ma quel tuo amico, io vi sento tutte le mattine. Ho detto: stamattina per esempio non lo senti. Sì. Dice: stamattina c'ho da fare delle cose. Ha detto: quel tuo amico lo dovevi portare qua, doveva presentare un libro. E qui ti aspettano alla chiesina. Amico, sono Maria. Io. Ma dovete garantire un riscontro economico, dovete pagare. Ma non è vero, sì. Ma è il problema. Ma che riscontro, ma che riscontro economico? Sì. Basta una bistecca. Dovete dargli una guantiera di paste con dentro l'imbottitura. Sotto. No, sotto le paste dovete mettere dei fruscianti. Un bicchiere di vino con col direttore della banca di Anacleto, che devo capire due o tre cose. Devi dire. O Maria, ho portato due paste e dentro sotto metti una bella imbottitura di una decina di banconote da 50. Da veramente una spregevole immagine di me. No, per davvero, avevo già parlato con Cinda l'altra settimana, ha detto ora se si riapre un po'. E per la festa della chiesina vi si fa venire. Ma quando è la festa? Quando è la festa della chiesina? È il 5 d'agosto, ma settimana chiesinese comincia. Ho capito, settimana. Ma il 5 d'agosto, ma io in agosto sono in vacanza e sono con i figli. Ma che vacanza? Vieni qua due o tre giorni, ti diverti, mangi, bevi e poi se c'è da fare qualcos'altro si trova a fare anche di qualcos'altro. Non ti qualcos'altro cosa? Qualcos'altro? Vedrai. Sai che domani domani vado a Grosseto, quindi passo in Toscana. Vedi, lui è di quelli che passa dalle tue parti e manco viene a salutare. Perché non mi parti. Fa trovare la guantiera imbottita. Ma lui se da Grosseto passi, che fai? L'autostrada del sole, poi che fai? Faccio la Cisa, poi prendo l'autostrada. Allora, quando scendi poi giù, arrivi a un certo punto, c'è scritto Firenze. Sì, a Firenze e sono mezz'ora a chiesina, aspetto, si va a mangiare qualcosa. E poi si diverte. È così, Anacleto. Cioè, la vita è così: cioè, si beve, si mangia. E come fa? Si aspetta qui a 65 anni, dove andare, Maria? Ma no, che fa? Dove certo andare? Che tu ne devi aver combinate una più del diavolo. Devi aver avuto una vita oltre il Mozambico. Oltre il Mozambico. Il mio amico Mario Scriva mi dice: sei l'uomo più perverso della chiesina. Capito? È tutto orgoglioso, ride di questo epiteto che t'hanno. E poi te ne dico un'altra, perché ho avuto stamattina un mezzo di una discussione con chi? Allora, il mio amico, il direttore delle Poste. No, Dio, la forza non ci può mica. Allora ti spiego, perché voi vi sento lì cosordi a maneggiare l'economia e la rovina delle famiglie. Questa la devi passare, perché te fai un riscontro, magari vai, che so, pensi di spendere meno e poi invece tocca. Hai capito com'è? Capito, l'economista Anacleto, direttamente dalla chiesina. L'economia è la rovina delle famiglie, dice Alessandro Tomponi. Ma perché non partecipi alla trasmissione di Barisoni? Esatto, potresti fare l'editorialista. A Focus Economia fai l'editorialista. Dalla chiesina. Ma che vuoi fare, dai, fai sentire. Beh, ora appena si scansa un po' di corona vengo su. Va bene, bravo, vieni su. Una bistecca. Vieni su il giorno in cui noi veniamo in giù alla chiesina, così non ci incontriamo neanche quella. Scherzo. Ci troviamo a Pontremoli a mangiare i testaroli. Ottimo, al pesto. Dai, devo andare al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Noi commessi di supermercato siamo costretti a tenere la mascherina tutto il turno di lavoro. Al massimo la posso togliere solo se quando vado in bagno. Pena il licenziamento. Lo so, per carità, infatti è un po', non è che dico una follia perché la regola è quella, ma una follia dal punto di vista esistenziale. Io sono un po' claustrofobico, per esempio sarei spacciato, cioè non ce la faccio, non potrei reggerlo questa situazione, però tanta stima per chi ce la fa. Allora, è arrivato a trovarci per portarci un po' di buon umore il clown Neronello, l'amico dei bambini. Buongiorno cari amici ascoltatori di Radio 24. Allora, dopo tutti questi mesi da clown in smart working, ho ricominciato a intrattenere dal vivo quei maledetti mocciosi. Esco da casa mia già truccato da clown e appena arrivo nelle case dove ho le feste faccio subito un indovinello per far divertire i bimbi. Per esempio, bimbi, con cosa si innaffiano le rose? Con birra alla spina. Non ci credo. Appena ho detto questa meravigliosa battuta, uno di loro ha staccato una trave di cemento dal portico e ha puntato dritto verso di me. Mi ha detto: bambino maledetto, figlio del demonio, cane schifoso. No, addirittura. Vuoi fare una cosa davvero divertente? Travestiti da gazzella e fatti portare allo zoo. Vai a far due passi nella gabbia dei leoni, cane maledetto. Stava per succedere l'irreparabile quando è arrivata la madre. Mi ha detto: Neronello, lascia stare i bimbi, se ti va puoi dare un'occhiata alla mia criniera. Ci siamo portati nella sua camera a fare qualche gioco con la sua criniera tra le lenzuola. Una bella criniera, ma ormai stava scadendo il mio tempo, i bimbi mi reclamavano, così sono sceso e ho raccontato una delle mie favole, le favole del clown Neronello, oh, l'amico dei bambini. Yup! C'era una volta un regno molto lontano, abitato da principesse bellissime, principi valorosi e audaci cavalieri. Ogni sera al castello del re c'era una festa e i sudditi vivevano felici in grande armonia e prosperità. Finché un giorno il sovrano del regno accanto, invidioso dei suoi vicini, decise che doveva fare qualcosa per distruggerli. E così radunò l'esercito per dichiarare guerra. Lo chef di corte avvertì un grande boato e guardò fuori dalla finestra. Una schiera di soldati in assetto bellico stava pericolosamente avanzando ed entrava nelle case per fare razzia di tutti i beni più preziosi. Nel palazzo i sudditi iniziarono a urlare in preda al terrore. Si scatenò un tale panico che il consigliere del re Ortodonzio dovette salire sul palco per invitare alla calma. «Ok, raga, tranquilli. Il nemico è alle porte, ma per vostra fortuna ho visto tutto il trono di spade. Vado a parlare io.» Ortodonzio andò dal comandante dell'esercito nemico, mentre intorno in tutto il villaggio continuavano i saccheggi. Il re osservava la scena con il binocolo dal balcone del palazzo, pregando che il suo fedele consigliere riuscisse a fermare con le sue parole quelle terribili razzie. E alla fine Ortodonzio ci riuscì. I soldati nemici scomparvero all'orizzonte, anche se ormai carichi di un discreto bottino. «Dai, raga, vi hanno rubato tutto, ma l'importante è stare insieme!» esclamò Ortodonzio, che non diceva mai banalità. I sudditi pensarono che in fondo aveva ragione e lo portarono in trionfo, mentre il re lo premiò con 100 lingotti d'oro. Ortodonzio ringraziò e andò a festeggiare al miglior ristorante del regno insieme al comandante dell'esercito nemico, così potevano smezzarsi con calma il bottino e progettare il prossimo colpo. Bimbi, qual è la morale della favola? Se provate a vivere felici, in armonia e prosperità, le vostre case verranno saccheggiate dalle truppe nemiche. Se invece progettate un colpo insieme al comandante dell'esercito nemico, potrete smezzarvi il bottino e vivere per sempre felici e contenti. Questa e la morale della favola, cari bimbi. Arrivederci con la prossima favola e le prossime avventure del clown Neronello, oh, l'amico dei bambini. E va bene, va bene, Neronello. Anche oggi una bella morale costruttiva molto. Per i bimbi che grazie alle mie favole cresceranno benissimo adatti a questo mondo nel quale ci troviamo, e un giorno potranno dire: grazie Neronello, sì, tu ci hai risolto la vita. Eh sì, moltissimo. Non capisco più a che ora chiudiamo, perché chiudiamo a volte questa musichetta minuto, parte alle 57, a volte alle 54, a volte alle 45. Dipende dalla pubblicità. A volte ho sentito la musichetta alle 10.07, così. Così. Diciamo che Peter Bescapè fa quello che vuole. Quello che vuole. Stavo dicendo vuole altro, ma mi sono trattenuto. Devo dire che i bambini anche sono creativi con le armi, eh? Mi piacciono questi bambini che utilizzano oggetti. Ricordo quando mio padre mi faceva sparare con la carabina ad aria compressa nella cucina di casa mia. Successe qualcosa di improprio una volta? Era un gran divertimento. Poi abbiamo cominciato a utilizzarlo anche dal balcone. Lì era meno divertente per quelli che passavano. Non lo dica neanche per scherzo. Va bene, Neronello, la ringraziamo. Venga a trovarci con delle morali sempre stucchevoli per i nostri figliuocci. E noi ci ritroviamo domattina alle 9. Domani alle 9. Domani mattina alle 9. No, alle 10 e mezza!